Ecco, sì, ci siamo. Pirrone, stiamo parlando di Pirrone, Pirrone lo scettico, Pirrone il fondatore della scuola scettica. Dunque Pirrone va con le truppe di Alessandro fino all'India, scopre una cosa che vi pare degna di nota, e cioè che in India non credono negli stessi dei in cui si crede in Grecia, non mangiano come si mangia in Grecia, e non fanno gli stessi giochi, le stesse attività ginniche che si fanno in Grecia, anzi sembra che abbia scoperto che i gnosofisti, come li chiama lui, fanno delle cose molto strane, che praticamente sarebbero poi lo yoga, quello che noi conosciamo come yoga. E dunque Pirrone rientra e decide di comunicare ai suoi concittadini queste stranezze che ha visto, ma soprattutto decide di comunicare una cosa che ha un valore filosofico fondamentale per la storia del sapere greco, ma poi insomma per la storia del sapere umano in generale, e cioè che la verità non esiste. Tant'è vero che noi crediamo che la verità sia Giove, quelli credono che la verità sia Brahma, noi crediamo questo e quelli credono quello, e però non è che sono scemi. Cioè li ho conosciuti e mi è sembrato di entrare in contatto con persone di grande saggezza. E Pirrone fonda una scuola che noi conosciamo infatti come scetticismo. Se io vi chiedessi che cosa vuol dire scetticismo, magari non mi rispondete in maniera filosoficamente precisa, però sapete di che si tratta, no? Scettico è colui che non crede. Ecco, Pirrone in qualche modo, grazie alla sua esperienza e anche grazie alla sua intelligenza, ci dice una cosa fondamentale per la storia del sapere umano, che sa solamente chi non crede, chi crede non sa, che credere è una pessima disposizione nei confronti della conoscenza. Naturalmente poi bisogna intendersi su cosa vuol dire la parola credere, cosa vuol dire la parola sapere, ma diciamo che se credere significa assumere come indiscutibili, come definitivamente ed indiscutibilmente vere delle proposizioni, per quanto fondate sull'esperienza, per quanto largamente diffuse, eccetera, chi parte dalla presupposizione di una verità non giungerà a conoscere, ma giungerà a riconfermare la sua verità, dal momento che questo è il suo sforzo. Ecco, dunque, lo scettico è colui che non crede, e proprio perché non crede, sulla base di un atto conoscitivo fondamentale che è la skepsis, che in greco significa proprio significa distinzione, come crisis, significa una condizione mentale di critica, di riconoscimento, di vabbè, insomma, comunque lo scettico. Ecco dunque per prenderla molto alla lontana, possiamo dire che in quel atteggiamento troviamo riuniti molti elementi di quello che poi diventerà l'epistemologia, cioè l'atteggiamento fondamentale nei confronti della conoscenza che caratterizza la storia del sapere, almeno quello occidentale, ma poi non soltanto. Scepsi e nomadismo. Direi che questi sono i due elementi: nomadismo, il viaggio, lo spostamento, cioè il gesto, l'atteggiamento, la pratica che mette in discussione la tua radice, e quindi la tua fede, quindi questo è fondamentale, muoversi, spostarsi, cambiare punto di vista. L'espressione punto di vista è significativa, perché è un punto di vista, è il fondamento dello sguardo, è il fondamento di ciò che noi possiamo vedere e anche di ciò che non possiamo vedere. E però il punto di vista è un punto, è un luogo nello spazio, nel tempo, nella storia, e il punto di vista cambia, possiamo cambiarlo con un atto di volontà, con uno spostamento, con una illuminazione, no? Bene, quindi lo spostamento, il vagare e lo scetticismo. Questi è la scepsi, questi sono i due elementi che da Pierrone filtrano nel pensiero della tarda antichità. La tarda antichità, fermiamoci un attimo sulla tarda antichità, è nella tarda antichità, cioè molti secoli dopo Pierrone, 5-6 secoli dopo Pierrone, nel 3-400 d.C., che lo scetticismo ha una nuova e più importante fioritura con un filosofo latino che si chiama Sesto Empirico, per esempio, e molti altri. E poi lo scetticismo filtra anche all'interno del pensiero cristiano, in quello che noi conosciamo come gnosticismo o gnosticismo. Insomma, c'è una fioritura del pensiero scettico nel periodo della grande crisi, della crisi finale, la crisi del mondo antico, che, come voi sapete bene, giunge proprio nel momento in cui le tre grandi civiltà antiche vengono spazzate via da una nuova energia, da nuove culture. Quali sono le tre grandi civiltà del mondo antico? Ritorniamo ad Alessandro. Se vi faccio delle domande non è per mettervi in imbarazzo, ma semplicemente per capire. Civiltà latina, greca, egizia. Egiziana, perfetto. Ecco, sono le tre grandi civiltà che si incontrano grazie all'opera di Alessandro, si incontrano proprio in questa città della costa nord africana, della città di Alessandria, e ad Alessandria nasce una biblioteca che è una biblioteca diciamo, oggi diremmo meticcia, insomma, dell'incontro, dell'incrocio, della contaminazione fra queste tre grandi culture dell'epoca antica. Ci dicono gli storici che nella biblioteca di Alessandria erano raccolti oltre 10.000 papiri, 10.000 rotoli, 10.000 libri raccolti nel corso del tempo. La biblioteca di Alessandria non ci è rimasta, perché dopo il 300, prima i cristiani, poi gli islamici, prima non mi ricordo come si chiamasse, un vescovo cristiano, e poi il califfo Omar nel 603, qualcuno nel 703, comunque durante la conquista islamica, a due riprese danno fuoco alla biblioteca. Perché lo fanno questi due signori? Perché loro hanno la verità e dunque non vogliono sapere. E nel destino della biblioteca d'Alessandria, distrutta da due rappresentanti dell'ignoranza, insomma, due rappresentanti dell'anticultura, noi leggiamo come in estrema sintesi proprio un poco il senso che aveva avuto fino dalla fine dell'antichità la ricerca come disponibilità alla contaminazione, alla scoperta dell'altro, eccetera. Beh, tutto questo si conclude in qualche modo nell'epoca in cui finisce la civiltà antica, anzi finiscono le civiltà antiche, e al loro posto si costituisce, si installa un potere di tipo religioso, anzi più poteri di tipo religioso, e noi abbandoniamo la questione lì. Scompaiono gli istituti di formazione che l'antichità aveva conosciuto. Ecco, io ho citato l'Accademia di Atene o la Stoa solo perché non conosco le altre, ma molte altre ce n'erano, e con quelle caratteristiche che abbiamo detto. Dopo, per un lungo periodo, praticamente la trasmissione di sapere si interrompe. Nel periodo che va, diciamo, dalle invasioni barbariche nei territori romani fino almeno all'800 d.C., fino all'epoca di Carlo Magno, non esistono strutture di trasmissione del sapere. Da questo deriva la scomparsa, la devastazione, l'oblio di molta parte del sapere dell'antichità. Certamente noi abbiamo perduto conoscenze che poi che si sono ricostituite molto lentamente, o che forse non sono ricostituite affatto. Non è detto che noi sappiamo tutte le cose che sapevano gli egiziani, non è detto che noi sappiamo tutte le cose che sapevano i greci, in medicina per esempio, o in astronomia. Bene, comunque, nel periodo carolingio, dopo la costituzione del Sacro Romano Impero da parte di Carlo Magno nella notte di Natale dell'anno 800, quando Carlo Magno viene investito del ruolo di imperatore di un impero cristiano, il Sacro Romano Impero che nasce nella città di Aquisgrano nell'800, è un impero cristiano, sacro, cristiano e romano, cioè un impero che tenta di riprendere la continuità antica con Roma, eccetera. E la scuola, noi usiamo dire infatti spesso che l'istituto scolastico nasce con Carlo Magno, la scienza naturalmente, ma insomma vuole dire che con la ricostituzione dell'impero si ricostituiscono anche delle strutture di trasmissione del sapere, però poi essenzialmente parliamo del sapere religioso, perché l'istituzione fondamentale di quell'epoca, la sola istituzione che è sopravvissuta al Medioevo, alla cancellazione della memoria, la sola istituzione è la Chiesa romana, la Chiesa cristiana, e nel territorio nordafricano o medio orientale è la nascente potenza dell'Islam, che non dobbiamo trascurare, perché se vogliamo capire quello che sta succedendo in Europa con Carlo Magno, dobbiamo partire dall'Islam, perché cosa spinge romanità, l'Europa, usiamo questa parola, cosa spinge l'Europa a ricostituire l'impero? Cosa spinge proprietari terrieri, i feudatari, i vescovi di questo territorio che è la Francia, l'Italia, la Germania, a ricompattarsi, a ricostituire un esercito, a riconoscersi in un unico re, eccetera. La paura dell'Islam è questo che li spinge ad unificarsi. L'Europa nasce con Carlo Magno come reazione della cristianità contro il pericolo islamico. È una brutta nascita, bisogna dire, perché è una nascita che predispone alla guerra. E infatti una guerra era in corso, voi sapete che dal 700, dall'VIII secolo, arabi provenienti dal Marocco, dall'Algeria, dalla Tunisia avevano occupato il sud della Spagna, l'Andalusia, e poi la Spagna era stata per gran parte conquistata conquistata è una parola difficile da usare, insomma era stata invasa più o meno pacificamente, e la Spagna è territorio islamico. Siviglia addirittura nell'anno 1000 è considerata come la capitale culturale dell'intero mondo islamico, che pure si estende dall'India. Voi sapete, no, che l'Islam inizia, la diffusione dell'Islam inizia nel VII secolo, e nell'arco di un secolo e mezzo l'Islam raggiunge il nord dell'India da una parte e l'Andalusia dall'altra, quindi l'estensione del mondo islamico in brevissimo tempo è diventata immensa, gigantesca. Il mondo cristiano si sente assediato, si sente in pericolo, e quindi decide di attribuire a questo Carlo Magno un potere imperiale che permetta all'Europa di difendersi, sopravvivere e iniziare una lenta guerra di riconquista che poi due secoli dopo, nel 1452, giungerà a riconquistare la Spagna, e vabbè, così che Islam e cristianesimo si fronteggiano per tutta l'epoca moderna intorno al Mediterraneo. Chi fosse interessato a questo argomento potrebbe leggere un libro che si chiama Maometto e Carlo Magno, l'autore è Henri Pirenne, H-E-N-R-I-P-I-R-E-N-N-E, Pirenne. Beh, si tratta di un libro appunto sull'origine dell'identità moderna europea, che emerge proprio da questo scontro con l'Islam. E, beh, insomma, perché ho raccontato questa storia? Perché ho mal di testa e non c'è altra spiegazione. Per introdurre un discorso sulla formazione del sapere moderno. Cioè, nell'epoca medievale, una trasmissione del sapere da Carlo Magno in poi si ricostituisce nelle abbazie, nei grandi conventi, però è trasmissione di un sapere fortemente dipendente, totalmente dipendente dalla Chiesa. E dunque la laicizzazione, diciamo così, del sapere, cioè la emancipazione del sapere dal predominio ecclesiastico, è un processo molto lento che inizia lì. Quando inizia, come, perché inizia? E qui, dato che ormai abbiamo deciso che facciamo una storia, una rapidissima storia di 2500 anni, soffermiamoci anche su questo punto. Qual è il passaggio che rende possibile la lenta formazione di quella che noi chiamiamo modernità, eccetera? Direi la nascita di un modello sociale ed economico che è quello legato alla borghesia, e anche la nascita della forma urbanistica, territoriale e così via, che definiamo come borghese. Tanto per cominciare, borghesia, la parola borghesia nasce dalla parola borgo, burg. E dunque il borgo è diciamo il nucleo originario di quella che possiamo chiamare città. Borgo a rigore sarebbero le poche case che nascono intorno ad un castello feudale, in cui lavorano gli artigiani, in cui lavora in cui c'è quella parte di lavoro che non è lavoro contadino, che non è lavoro agricolo. Ecco, quindi il borgo è il luogo degli artigiani, dei produttori non agricoli, e la borghesia è la classe del borgo, è la classe della produzione artigianale, ma è anche la classe dei commerci, naturalmente, quindi degli spostamenti, del viaggio, ancora una volta, della conoscenza vagante, della conoscenza nomadica. E quindi la borghesia nasce come un corpo estraneo all'interno del mondo feudale, del mondo chiuso del feudalesimo e del predominio religioso. La borghesia è portatrice di un modo di produzione che è nuovo, diciamo un modo di produzione che possiamo chiamare artigianale, ma che poi andrà verso l'industria, verso la creazione di un modello produttivo ed economico di tipo dinamico, dinamico in contrapposizione al modello essenzialmente statico, che è quello agricolo, statico. Modello in cui tutto si riproduce sempre uguale anno dopo anno, dinamico è invece un modello economico nel quale ogni anno il ciclo produttivo si allarga, si amplia e quindi si mette in moto una dinamica che è quella che poi porterà alla modernità, cioè al modello fondato sulla crescita, sullo sviluppo, sull'espansione, sulla scoperta, sull'innovazione. Questa è la modernità, la parola stessa modernità, che significa modus, in greco significa modo. Il modo si contrappone alla sostanza. La sostanza è ciò che rimane sempre uguale e il modus è ciò che cambia continuamente, da cui noi ricaviamo anche la parola moda, naturalmente. E dunque la modernità è la sfera storica in cui il mutamento prevale rispetto alla stabilità, il mutamento, l'espansione, la scoperta, l'innovazione, sono le parole che definiscono la borghesia e che definiscono questo nuovo modello che sta emergendo sulla scena europea e a partire, diciamo, dall'anno 1000, si dice, ecco, insomma, comunque, in quel periodo. Il rapporto tra il borgo e il castello, tra il borgo e la chiesa, il rapporto tra la borghesia emergente e il blocco statico del feudalesimo e della chiesa è un rapporto conflittuale, naturalmente, è un conflitto di lunghissimo periodo, un conflitto che abbraccia perlomeno 5 secoli, 5 secoli durante i quali lentamente la borghesia crea le sue strutture di riproduzione, di produzione economica e di ricerca e di trasmissione del sapere. In fondo la scuola moderna, l'università moderna prima di tutto, nasce proprio da questo bisogno che la nuova classe borghese che sta emergendo sulla scena d'Europa, da questo bisogno di darsi una struttura per la conoscenza e soprattutto per la trasmissione di sapere. La trasmissione di saperi anche molto, diciamo, materiali, saperi tecnici e artigianali legati alla formazione delle industrie, legati alle varie forme dell'arte e dell'artigianato. Ecco, questo ruolo nuovo, questo spazio nuovo che la Ars assume nella modernità, arte. Ars in latino significa niente più che tecnica. Ars è la traduzione latina della parola greca tecne, cioè la competenza tecnica, la capacità di fare una cosa, questo è l'ars. Nell'epoca moderna la parola arte passa a significare altre cose molto diverse e più, diciamo, evanescenti, se vogliamo. Però dovremmo anche capire come lo spazio concettuale dell'arte viene formandosi nell'epoca moderna. Sarebbe bello in un'accademia di belle arti ragionare su di cosa ci stiamo occupando, cos'è esattamente oggi per noi quella che chiamiamo arte e cos'è stata nell'epoca moderna. C'è un libro di un autore italiano che si chiama Mario Perniola, filosofo dell'estetica, filosofo dell'arte, che si intitola L'alienazione artistica. È un libro che non troverete credo che sia scomparso dalla circolazione, pubblicato nel 1971, in qualche biblioteca si trova, la Sormani lo trovate di sicuro. È un libro che io ho letto allora, quando facevo l'università, e che mi fece un'impressione straordinaria. Non dico che sia un bel, insomma, forse oggi appare un po' datato, un po' scolastico anche per certi aspetti, ma per Niola, che fra l'altro è vicino alla Internazionale Situazionista, Guy Debord, la società dello spettacolo, quindi voi capite, chi conosce Debord o chi conosce un poco il situazionismo, capisce che insomma, il discorso di Perniola non può essere banale. E Perniola ragiona sull'origine dell'arte nel periodo che sta fra il 300 e il 400, insomma, ovviamente il Rinascimento italiano, il grande momento in cui l'arte si stacca definitivamente, o non definitivamente, però decisamente dalla tecnica, per acquisire un suo statuto particolare. Allora cerchiamo di vedere cos'è l'ars, prima di diventare con il Rinascimento italiano arte, con tutto quell'enfasi, quella retorica che poi nella modernità noi attribuiamo in qualche modo all'arte. Cos'è? L'ars, la tecnica, è mera competenza di esecuzione di un progetto e vive in un rapporto strettamente legato, vincolato, indissociabile con la vita quotidiana. Non c'è distinzione fra l'artista e l'artigiano fino al Rinascimento. L'artista non è nient'altro che un buon esecutore di di un'opera, che è un'opera sempre unica. Perché? Perché prima dell'industria la realizzazione di un'opera è sempre un atto unico, no? E qualsiasi cosa vi facciate, una porta o una bottiglia, è il prodotto dell'attività manuale, intellettuale, estetica di un artigiano che magari poi usa delle macchine che rendono facile la riproduzione, ma il senso di unicità e di individualità dell'operazione produttiva è molto forte. E quando nasce l'industria, progressivamente questa unità fra l'artigiano e la sua opera scompare poco alla volta. Perché? Perché l'industria, nella sfera del nuovo mondo capitalistico, l'industria non è un luogo in cui si producono oggetti per l'utilità sociale, per l'utilità del produttore stesso o per l'utilità della sua comunità. L'industria è il luogo nel quale si accumula capitale, non ha nessuna importanza che tipo di attività stiamo svolgendo. La differenza del capitalismo rispetto alle epoche precedenti, diciamo alla produzione di tipo artigianale, sta nel fatto che il lavoro non è più lavoro concreto, lavoro utile, ma tende a diventare lavoro astratto, la cui vera finalità non è la produzione di oggetti, ma è l'accumulazione di capitale. Mi spiego. Se io ho una somma di denaro e voglio che questa somma di denaro cresca, posso decidere di investire questa somma di denaro nella produzione di automobili, oppure di orologi, oppure di libri. A me non me ne frega niente del fatto che sto producendo automobili, orologi o libri. Non è che mi piacciono gli automobili o gli orologi e quindi ne voglio fare molti. Voglio accumulare capitale, voglio che il mio capitale iniziale aumenti. Quindi mi informo, dico: come va il mercato dell'auto? Va bene, produco automobili. Questo dal punto di vista del capitalista, a maggior ragione dal punto di vista dell'operaio. Nessun operaio, forse qualcuno ce n'è, ma sono molto rari, decide di andare a lavorare in una fabbrica di automobili perché gli piacciono le automobili, ma perché lì c'è un posto che gli permette di avere un salario. Se quel posto scompare, il giorno dopo cercherà lavoro in una fabbrica di orologi. Ora, questo significa che il rapporto fra attività qualitativa e effetto economico dell'attività qualitativa diventa sempre più astratto, mentre per l'artigiano medievale fare una chiave piuttosto che un carro significa produrre qualcosa che serve ad una persona che lui conosce, perché tra l'altro il borgo è un posto nel quale ci si conosce, è un modo per segnalare la sua abilità, eccetera. Per il lavoratore industriale o per il capitalista industriale, il rapporto fra attività e prodotto è un rapporto che tende a diventare sempre più astratto. Naturalmente, anche qui stiamo parlando di un processo che si svolge lentamente nel tempo, ma certo nel 1800, nel 1900, quando l'industria raggiunge la sua maturità, il lavoro industriale non ha più nessuna delle caratteristiche legate alla qualità del prodotto, al piacere estetico della produzione che caratterizzavano l'attività dell'artigiano sei secoli prima. Un operaio metalmeccanico del Novecento è del tutto disinteressato, anzi odia con tutte le sue forze ciò che gli tocca di fare, ma lo fa perché è l'unico modo per guadagnare il suo salario e per mantenere, se ha la disgrazia di avere dei figli, e di mantenere i suoi figli. Ecco, il modo di produzione capitalistico è un modo di produzione in cui qualità del prodotto e finalità economica divergono. Karl Marx parla a questo proposito di lavoro astratto o di astrazione del lavoro, Il lavoro concreto è lavoro finalizzato alla utilità specifica del prodotto, mentre nella sfera dell'industria capitalistica la finalità del lavoro non è il carattere utile e concreto del prodotto, bensì l'accumulazione di capitale, e dunque il rapporto con la qualità del prodotto è un rapporto del tutto astratto. Non me ne importa niente, astraggo completamente da ciò che sto facendo, lo faccio perché voglio un salario o lo faccio perché voglio accumulare valore. Ecco, voi vedete come in questa alienazione del lavoro, la parola alienazione entra nel lessico filosofico a partire dall'Ottocento per intendere un atto di perdita di sé, di estroversione della propria personalità. Aliud in latino vuole dire altro. Alienare vuol dire vendere oppure mettere fuori, perdere. Per cui si dice alienato è anche un malato mentale, uno che ha perduto se stesso in qualche modo. E con la parola alienazione si intende, è una parola che usa Karl Marx, ma che usava già precedentemente Hegel, che usa la filosofia tedesca dell'Ottocento, che comincia a occuparsi criticamente del capitalismo. E alienazione significa la perdita di sé, la perdita della propria qualità umana. In qualche modo la qualità umana viene progressivamente perduta nel rapporto con il lavoro e con la produzione capitalistica. E allora l'arte cos'è? L'arte sarebbe proprio la ricerca di un rapporto qualitativo con ciò che l'essere umano, l'artigiano, il produttore è in grado di fare. Perniola giustamente dice sì, però questo significa che l'arte è il prodotto di un'alienazione. Sì, certo, sarà il tentativo di ricomporre la propria unità, ma l'artista è alienato tanto quanto l'operaio. L'operaio è alienato perché lavora a una cosa di cui non gli importa niente. L'artista è alienato perché lavora a qualcosa che rappresenta la sua intima essenza, ma lo fa a patto di non avere nessuna concreta efficacia sociale. Il lavoro dell'artista è un lavoro socialmente privo di utilità. Ecco dunque perché Perniola usa l'espressione alienazione artistica, una doppia alienazione, quella dell'operaio che fa cose che non gli interessano, anzi che odia con tutte le sue forze, ma che saranno utili a chi li compra, perché insomma i prodotti devono pur svolgere una qualche attività utile, anche se quell'utilità non è conosciuta dall'operaio, non lo riguarda. Questa è l'alienazione operaia, l'alienazione industriale, e l'alienazione artistica in qualche modo è lo specchio, l'altra faccia del medesimo processo. E allora che devono fare gli artisti? Ecco qua che tra l'Otto e il Novecento emerge una riflessione radicale su questo problema. L'artista che si mette in questione tentando di fare i conti con questa scissione, con questa schizofrenia, per cui chi produce cose utili non le sente come proprie, e chi produce cose proprie sa che non sono utili. Ecco dunque che in qualche modo l'avventura, la storia della ricerca artistica nel corso del Novecento è proprio tutta centrata intorno a questa alienazione fondamentale, Poi i gesti che si possono compiere sono i più, più variegati. Il Bauhaus dirà: noi dobbiamo diventare come gli operai, dobbiamo fare cose utili, dobbiamo essere capaci di produrre oggetti, case, mobili che entrino nella vita quotidiana allo stesso modo dell'industria. Il dadaismo dirà: no, noi dobbiamo distruggere la separazione fra arte e vita quotidiana, dobbiamo diventare in qualche modo sabotatori della alienazione industriale fondamentale. I futuristi diranno: dobbiamo fondere l'attività estetica con il processo di trasformazione, di innovazione storica, politica, eccetera. Ciascuno dirà la sua, ma il problema in qualche modo è lì, il problema delle avanguardie, nel corso del Novecento. Ecco, ci potremmo chiedere, ma lì io poi non sono in grado di dare delle risposte, ci potremmo chiedere anche cosa accade quando a un certo punto le avanguardie si esauriscono, quando quel tentativo riesce o fallisce, eccetera. Cioè, che cos'è l'arte o la ricerca artistica oggi, nella nostra epoca? Vabbè, magari ritorniamo su questo argomento se ci viene in mente qualcosa. Punto. Per il momento mi sembra di aver già fatto abbastanza confusione. E ritorniamo all'origine del processo di alienazione moderna, cioè il momento in cui, diciamo, nel passaggio dal Medioevo all'epoca umanistica, in quel passaggio che è segnato soprattutto dal Rinascimento italiano, l'attività dell'artista si separa dall'attività del produttore, dell'artigiano, dell'industriale, del borghese industriale e così via. E torniamo alla questione più grande ancora, che è quello del rapporto fra sapere e potere economico in quel periodo. Allora, avevamo abbandonato i nostri clerici vagantes nell'epoca medievale, nell'epoca in cui il sapere è tutt'uno con la teologia e l'istituzione scolastica è tutt'uno con l'istituzione religiosa, con la Chiesa. Eravamo lì ed ecco che però questi clerici vagantes, questi intellettuali alla ricerca di un sapere, cominciano ad avvicinarsi sempre di più ai borghesi, cioè alla gente del borgo. Ecco che a partire dal tardo Medioevo, lentamente la produzione di sapere tende a differenziarsi, ad allontanarsi dalla teologia, dal dogma. E quindi noi abbiamo questo atto leggendario, mitologico, della fondazione dell'Università di Bologna, a cui si attribuisce come un significato iniziale, di inizio, insomma, di una nuova storia. Alla fine dell'undicesimo secolo, nella città di Bologna, nasce la prima università. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che alla fine dell'undicesimo secolo si stanno creando le condizioni per un incontro fra clerici vagantes e nuovo modello chiamiamolo borghese, e nuovo modello della produzione, della città, del sapere e così via. Questo è quello che accade a partire dall'undicesimo secolo. Naturalmente l'università originariamente vive in un rapporto molto stretto con l'istituzione ecclesiastica, non può che essere così, però questo rapporto è fin dall'inizio contraddittorio. L'università fuoriesce dal dominio della Chiesa, è più legata al dominio della città. Universitas proprio Universitas è il luogo del sapere universale che nasce in uno stretto rapporto con la civitas, con la città. E questa separazione del sapere dal dogma religioso è un po' il motivo profondo della trasformazione che attraversa i secoli di passaggio alla modernità. Naturalmente stiamo parlando di un processo estremamente lento, perché dal 1200, dal 1100 fino al 1600 il predominio ecclesiastico permane sul piano della trasmissione di sapere, ma le esperienze innovative sul piano filosofico, come sul piano scientifico, come sul piano artistico, come sul piano politico, sono tutte esperienze di progressiva separazione del sapere dal dogma, fino al momento in cui questa separazione diventerà lacerante e avremo i processi contro Galileo, contro Giordano Bruno, e avremo la creazione dell'Inquisizione, che è un tribunale che giudica proprio il sapere dal punto di vista della Chiesa, e avremo insomma il processo di laicizzazione, che significa di separazione dal sapere, dal dogma. Questo è ciò che viene ad emergenza lentamente nel corso di quel periodo che noi chiamiamo Rinascimento. Rinascimento perché Rinascimento? Rinascimento di cosa poi? Cosa dovrebbe rinascere? Beh, è il rinascimento di qualcosa che già era esistito. Se diciamo Rinascimento vuol dire che non è un nascimento, è un nuovo nascimento. E cosa era già esistito? Era già esistita l'Accademia, la Stoa, era già esistita la scuola presso i greci, presso i latini. Era già esistita la scuola come istituto scettico, come istituto autonomo rispetto al credere. Quella era già esistita e dunque nel 400 e nel 500 la consapevolezza di reistituire qualcosa, un'autonomia del sapere che già era esistito, è una consapevolezza che si fa strada in modo sempre più aperto, ma anche sempre più conflittuale. Si calcola che nel periodo che va dal 1300 al 1600 in Italia siano state bruciate 300.000 donne, 300.000 streghe. E chi sono le streghe? Che cos'è la campagna che la Chiesa Cattolica conduce contro le streghe e anche contro un certo numero di uomini, prevalentemente donne? È essenzialmente una campagna di sradicamento di saperi che si sottraggono al dogma. La strega è generalmente una donna che conosce tecniche che la Chiesa vuole sradicare, le tecniche abortive naturalmente, le tecniche dell'allucinazione, l'uso delle erbe allucinatorie, di sostanze come la belladonna, la datura, la psilocibina anche. Questi sono i saperi fondamentali che le donne tramandano di generazione in generazione e che in quel periodo entrano, cioè nel periodo, diciamo, in cui la Chiesa vuole mantenere e consolidare il suo dominio, e però la società civile tende invece a creare le sue strutture di autonoma conoscenza, di autonoma ricerca, di autonoma trasmissione dei saperi, e quindi il primo scontro è sui saperi fondamentali, l'alimentazione, il piacere, la procreazione o la non procreazione, e dunque la caccia alle streghe è essenzialmente una battaglia sul terreno della conoscenza. C'è un libro di una scrittrice, filosofa femminista che si chiama Luisa Muraro, e il libro si chiama La signora del gioco, no, La signora del fuoco. E, no, forse La signora del gioco, del fuoco, non lo ricordo. In realtà è sia del fuoco che del gioco, perché Luisa Muraro spiega che la strega è una che la sera accende un fuoco perché le sue amiche vadano in quel posto nascosto che il prete non deve sapere dove sta, perché intorno al fuoco si trasmette il sapere relativo al gioco, il gioco della vita, la conoscenza di ciò che è più essenziale nella vita, eccetera. E dunque questa trasmissione essenzialmente femminile del sapere, questo è uno dei grandi oggetti della violenza ecclesiastica, della violenza del potere religioso nel passaggio alla modernità. Si gioca evidentemente tra l'altro una battaglia di genere in quel passaggio. Il problema è anche se il sapere deve essere femmina o se il sapere deve essere maschilmente dogmatico. E come sappiamo, i maschi hanno vinto certamente la battaglia della modernità, e 300.000 streghe sono il prezzo che quella sconfitta ha rappresentato. Scompaiono dei saperi che probabilmente risalivano all'epoca antica, perché quando avevo detto prima la biblioteca di Alessandria, no? La biblioteca di Alessandria che viene bruciata prima da un maschio cristiano e poi da un maschio islamico nei primi secoli della cristianità e poi nei primi secoli dell'Islam, e quindi uno sradicamento dei saperi antichi. Ma poi quei saperi non erano scomparsi, semplicemente erano filtrati. La tradizione orale aveva permesso di trasmettere conoscenze che venivano dalla notte dei tempi, e le donne ne sono state il tramite, insomma, di generazione in generazione, fino a quando nell'epoca di passaggio alla modernità la Chiesa compie l'ultimo atto di sradicamento. Noi abbiamo dovuto riscoprire che tutto il tema di cui abbiamo già un po' parlato, parlando della California e delle culture psichedeliche. E cos'è? Quando l'altra volta parlavo di Castaneda che va in Messico a incontrare lo stregone Don Juan per imparare a prendere il peyote, lo mescalino, la psilocibina e compiere quindi un percorso sapienziale che è anche un percorso di scoperta di conoscenza proprio. E noi questo l'abbiamo fatto negli anni 60, no? La riscoperta dei saperi psichedelici, ma quei saperi erano scomparsi con la caccia alle streghe dalla cultura europea, così come i saperi, le conoscenze abortive erano scomparse largamente in quella fase, così come altri saperi. Bene, dunque il passaggio alla modernità è sradicamento di una tradizione di conoscenza. Lo sradicamento viene compiuto dalla Chiesa. Poi entriamo nella modernità, e nella modernità l'istituto della Chiesa si separa, non mai del tutto, ma largamente, dall'istituto dell'università, dall'istituto diciamo, della trasmissione scientifica. E ecco che lì c'è tutto un discorso molto complesso che Luisa Muraro in quel libro incomincia a sviluppare, perché Luisa Muraro in quel libro parla proprio del fatto che la istituzione moderna della scienza è un'istituzione essenzialmente maschile, è un'istituzione che si fonda essenzialmente, paradossalmente, sullo sradicamento dei saperi tradizionali che la caccia alle streghe aveva permesso di eliminare dalla tradizione del sapere. Quindi, in qualche modo paradossale, la Chiesa si incarica di sradicare i saperi pagani, i saperi demoniaci che la strega portava con sé dalla notte dei tempi. La Chiesa si incarica di sradicare questo con insomma, la violenza della caccia alle streghe. La scienza istituirà il suo sapere nuovo, laico in qualche misura, però su questa sorta di taglio, di dimenticanza, di abolizione, di rimozione, ecco la parola giusta, di rimozione dei saperi tradizionali ed originali. Quindi la modernità in qualche modo nasce come espressione di due forze, che sono l'uno la forza dogmatica della Chiesa, l'altra la forza meccanica, laica, la forza laica, diciamo pure, del sapere meccanico, che è il sapere della scienza classica, della scienza moderna. Benissimo, mi rendo conto del fatto che sto ripetendo con una specie di più forte di me, sto ripetendo la lezione dell'altra volta, cioè sto ridicendo tutte le cose in un'altra maniera. No, in realtà dico delle altre cose. Tu non c'eri, Chiara, quindi lo faccio per te. E non c'erano neanche loro. E in realtà sto ripercorrendo lo stesso tracciato, però sto cercando un poco, anche lui non c'era, sto cercando un po' di spostare la mia attenzione su degli argomenti, degli eventi differenti. Qual è il punto d'arrivo di tutto questo lunghissimo excursus attraverso la storia della trasmissione del sapere? Perché questo è proprio l'argomento di cui sto parlando. La trasmissione del sapere, come avviene la trasmissione del sapere nel corso delle epoche. E qual è il punto d'arrivo? Che se la modernità nasce dalla separazione fra dogmatismo cristiano e sapere scientifico, poi il sapere scientifico istituisce un suo dogmatismo, se vogliamo, ma insomma, se la modernità nasce da questa separazione, il nucleo profondo della storia della modernità è l'emancipazione dal dogma, l'abbandono, il superamento, la liberazione del dogma. Dogma è una parola greca che significa verità indiscutibile, verità che non si può mettere in questione. dogma è una parola a cui, diciamo, la cultura europea dà un significato molto negativo, almeno in teoria. E, il dogma per la cultura moderna è il nemico della conoscenza. Là dove vi è dogma, là non vi è libertà di conoscenza. E là dove vi è libertà di conoscenza, il dogma è sconfitto, è messo da parte. Ma è poi vero questo? Cioè, se noi sviluppiamo la storia della modernità per giungere al nostro tempo, ecco, il grande problema che si ripropone nel tempo in cui noi viviamo è un ritorno paradossale, imprevisto, quanto vogliamo, del dogma e propriamente della teologia. L'economia che prende, nel corso della modernità, prende decisamente il posto della teologia. Cos'è la teologia? La teologia è un sistema che si fonda su un principio che non è discutibile, quello dell'esistenza e dell'esistenza di Dio e della normatività dell'esistenza di Dio, cioè il fatto che Dio non solo esiste, ma è la fonte della verità. E dunque la teologia in qualche modo è l'origine di un dogma che domina in fatto l'intera storia della Chiesa cristiana, così come dell'Islam, delle religioni monoteiste in sostanza. Ecco, la modernità si emancipa da quel dogma, a partire da una rottura di cui ho cercato di dare qualche elemento, no? Una rottura complessa, assolutamente non lineare, ma nel passaggio dal Medioevo alla modernità, la borghesia emancipa, libera degli spazi dal dogma religioso. Ne ha bisogno, perché solo in questa maniera può mettere in moto la macchina della innovazione scientifica, della innovazione tecnologica, che è una macchina determinante, decisiva, fondamentale per il suo sviluppo, per lo sviluppo della borghesia medesima e del suo sistema. Ma cosa accade poi nel corso della modernità? Accade che un dogma, che è l'economia, prende il posto del dogma teologico. E l'altra volta ho cercato di ragionare su cos'è l'economia, come si costituisce il sapere economico, e ho cercato di capire se possiamo definire l'economia una scienza. So che è una domanda piuttosto difficile, perché presuppone una risposta a una domanda veramente esagerata, cioè cos'è la scienza. Non sono in grado di rispondere in maniera esauriente a questa domanda, però dirò approssimativamente che la scienza è un sapere che si esercita su di un oggetto che esiste indipendentemente da quella scienza medesima. Cioè, l'astronomia studia gli astri, e gli astri sono là. Poi noi possiamo pensare che solo la nostra conoscenza scientifica pone in essere la realtà in una certa maniera. I nostri concetti ci permettono di comprendere qualcosa della realtà che probabilmente dipende dalla nostra proiezione conoscitiva, ma insomma la scienza si esercita come concettualizzazione, come creazione di concetti che si proiettano su un mondo. Ma il mondo dell'economia esiste? No, non esiste senza l'economia medesima. Cioè, l'economia è una conoscenza che pone in essere il suo oggetto. Non solo, ma l'economia non conosce delle leggi, delle costanti, delle forme più o meno stabili nel suo oggetto. Li predica, li proietta, li impone, ritaglia sulla realtà e ci li appiccica sopra. Cioè gli economisti non dicono come va il mondo, ma decidono che il mondo deve andare in una certa maniera e poi pongono in atto le tecniche politiche che rendono possibile un funzionamento economico del mondo. Voglio dire che l'economia è più una tecnologia che una scienza, è più un'ideologia che una scienza, se vogliamo. Non è conoscenza e concettualizzazione di un mondo indipendente dalla conoscenza medesima, ma è proiezione, imposizione di modelli concettuali, tant'è vero che gli economisti sono un po' come i preti, no? Ci rimproverano perché abbiamo speso troppo, perché abbiamo lavorato poco, o al contrario, perché abbiamo speso poco, abbiamo lavorato troppo. E c'è sempre un peccato dietro la norma economica. Gli esseri umani non sono mai a posto, debbono confessarsi in qualche modo. E poi debbono rispettare, devono fare i sacrifici, rispettare l'austerità, ma quando mai un fisico o un astronomo o un chimico diranno che le particelle debbono fare questo piuttosto che quello? Non è il compito del chimico non è stabilire se le particelle si comportano bene o si comportano male, è dire come si comportano le particelle, mentre gli economisti passano il loro tempo come i preti stabilire come le particelle, che saremo poi noi, debbono comportarsi invece di come stanno facendo. Insomma, tutto questo pistolotto è per dire che a mio parere l'economia è più definibile come una tecnologia che come una scienza. E dunque questa tecnologia si presenta all'interno del panorama scientifico moderno come una sorta di forza estranea ma anche con una vocazione totalitaria fortissima, cioè l'economia proprio perché pretende che il mondo vada secondo i suoi fini, che poi vedremo che non sono i fini degli economisti, ma sono i fini del capitale, e l'economia è la scienza dell'accumulazione capitalistica. La parola oikos, nomia, significano casa e legge, regola. L'economia originariamente è la regola della casa, è un... dovrebbe essere un sapere, una tecnologia, una nomia che deve regolare gli affari della sopravvivenza umana. Però diciamo che questa tecnica diventa poi invece nella modernità la tecnica finalizzata a rendere possibile l'accumulazione di capitale, non solo l'accumulazione, ma la crescita nell'accumulazione del capitale. L'economia è la scienza della tecnica, non è la scienza della crescita, perché la crescita non c'è se noi non la istituiamo, è la tecnica della crescita, per essere precisi. Allora la tecnica della crescita, la tecnica che rende possibile una costante espansione del valore o della ricchezza collettiva, diciamo così, questa tecnica poco alla volta prende uno spazio assolutamente dominante nel sistema dei saperi moderni. Perché? Perché l'università nasce come, come articolazione del progetto di trasformazione della borghesia, no? Nella modernità. E dunque il sapere è nella sua infinita complessità, è però, vorrei dire, maneggiato, posseduto da una forza sociale, da un progetto sociale, dalla borghesia e dal suo bisogno, dal suo progetto, diciamo così, di espansione e di crescita. Dunque l'economia finisce per normativizzare il mondo che gli sta intorno, le forme di vita, le forme di produzione e anche le forme di conoscenza. C'è un filosofo che si è occupato di questo argomento, del modo in cui la modernità ha modellato forme di vita e forme di conoscenza. Questo filosofo si chiama Michel Foucault, Michel Foucault, e ha scritto alcuni dei libri più importanti del nostro tempo, e il suo argomento è proprio la storia delle origini della modernità, almeno insomma le sue prime opere sono su questo, e la storia delle origini della modernità come processo di modellazione delle forme di vita e di conoscenza. Foucault scrive libri che riguardano la medicina, il carcere, la follia, il sapere, gli istituti di sapere, la scuola, e ciascuna di queste istituzioni Foucault ce le racconta dal punto di vista del modello originario, il modo in cui si costituisce il modello originario. E la sua tesi generale è che le istituzioni del moderno, della vita e del sapere moderno, sono modellate da un bisogno originario del capitale, del modello produttivo capitalistico, di normalizzare, inscatolare il corpo, la corporeità sociale e la mente sociale. Quindi Foucault lavora proprio a ritrovare nella storia dei primi secoli della modernità questo processo di disciplinamento, questa è la parola che usa lui, il disciplinamento della società moderna. Bene, l'attore fondamentale di questo processo di disciplinamento è l'economia, cioè l'economia diventa la regina o il re della modernità. Tutto può accadere, in ogni direzione si può andare, innovare, scegliere, si è liberi di conoscere, si è liberi di sperimentare, si è liberi di innovare, ma il quadro generale, il motivo generale, il modello generale, la legge generale, l'imperativo e la finalità generale, quella va rispettata, è quella norma generale, la crescita del capitale, l'espansione del capitale, l'accumulazione del capitale. Il prodotto deve crescere, il prodotto complessivo della società deve crescere. A questo principio non si può sfuggire. Chi si sottrae, chi si contrappone, chi ostacola questa norma universale, questa esigenza, questo interesse generale, questo bene assoluto, questa divinità assoluta del moderno, va tolto di mezzo, va sradicato, va eliminato. E la crescita, poi ecco, allora, il problema è cos'è la crescita. Ma il dogma in questa maniera è ritornato, Ecco, la storia dell'istituzione scolastica nel corso della modernità, avevamo detto, è storia di una progressiva liberazione, emancipazione del processo conoscitivo rispetto al dominio esercitato dal dogma. Era il dogma religioso. Nel corso della modernità però il dogma ritorna sotto forma di dogma economico. E per raggiungere la conclusione di questo discorso, che ho già fatto troppo lungo, noi abbiamo proprio degli atti istituzionali molto precisi, molto visibili, riconoscibili, della reistituzione del dogma. Per esempio la Carta di Bologna del 1999, proprio nella città in cui l'università è nata, sarebbe nata, proprio là nel 1999, cioè nel momento del massimo fulgore del neoliberismo, della filosofia neoliberista, che è una filosofia che sostanzialmente afferma l'eternità e la l'impossibilità di porre dei limiti allo sviluppo capitalistico e al potere del capitale, proprio alla fine di quel decennio, il decennio 90, il decennio in cui il neoliberismo trionfa nel mondo, alla fine di quel decennio a Bologna i ministri dell'educazione, il ministro della ricerca, della scuola, di tutti i paesi europei si incontrano per stendere un documento che prende nome di Carta di Bologna, in cui si dicono tante cose vaghe, ma una cosa molto precisa, e cioè la scuola, l'università, la ricerca sono sottoposte al principio della crescita economica. Sono sottoposte al principio della redditività aziendale. La scuola va concepita come uno strumento dell'azienda. La scuola deve servire il principio della accumulazione di capitale. Questa è la lezione della Carta di Bologna, che poi negli anni successivi va ad informare la legislazione dei diversi paesi europei. Ecco, non so, la riforma Gelmini, che ha tagliato 8 miliardi di euro alla scuola, ha licenziato 130.000 insegnanti, nella scuola ha precarizzato il lavoro di docenza, insomma ha distrutto la scuola pubblica, in fondo non è che una delle applicazioni del principio stabilito dalla Carta di Bologna. La scuola va privatizzata, la scuola va definitivamente distrutta e sottoposta al principio di massimo profitto, che è il principio aziendale per eccellenza. Ecco, dunque il dogma è ritornato con assoluta potenza, con assoluta centralità. Ecco, allora, e io adesso ho veramente finito, ecco allora che quelle parole con cui noi abbiamo incominciato, no? Che sono le parole di Mario Savio pronunciate il 2 dicembre del 1964 nell'aula occupata dell'Università di Berkeley, quelle parole in cui Mario Savio dice l'università è una corporation, e gli studenti volete trasformarli in raw material, materiale grezzo per la corporation, per l'accumulazione di denaro e per la guerra in Vietnam e così via, e quelle parole ritornano di grande attualità, diventano in qualche modo illuminano piuttosto oscurano e illuminano il percorso, la vicenda che la trasformazione della scuola ha conosciuto nei tre decenni degli ultimi tre decenni del XX secolo, insomma fra il 64 e gli anni 90, ecco, questo progressivo costituirsi del dogma economicista all'interno del sistema di sapere si è andato svolgendo come Mario Savio aveva drammaticamente previsto e denunciato. Mario Savio aveva anche detto: noi dobbiamo mettere i nostri corpi negli ingranaggi della macchina per fermare la macchina. Insomma, quelle erano affermazioni retoriche che drammatiche che in realtà poi i nostri corpi non li abbiamo messi negli ingranaggi della macchina, abbiamo lasciato che la macchina se ne impadronisse e così via. E basta. Che c'è? C'è qualche problema di traduzione? Non ho capito. C'è qualche problema di traduzione? No, e quello me ne rendo conto. Allora, io adesso interrompo un attimo, poi